iniziamo questa nostra serata. Vi ringrazio di essere così numerosi. Benvenuto a tutte le signore e signori. Come facciamo da un anno a questa parte, le iniziative della Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, che è via Mendola 5, vengono organizzate presso il Centro Trevi prevalentemente, oppure presso il Cristallo e il Liceo Classico, a seconda della disponibilità. Per noi è un'occasione diversa per far conoscere questa struttura e le sue attività, e continuiamo nell'organizzazione degli eventi per far incontrare il pubblico, le lettrici e i lettori con autori e autrici del territorio, ma non solo. Questa sera infatti abbiamo con noi il dottor Guido Spada, che è stato comandante della Compagnia Forestale di Treviso e Venezia, e soprattutto è un collezionista, studioso ed appassionato di opere e materiali relative alla Prima Guerra Mondiale. Con lui è presente Silvia Spada, dottoressa Silvia Spada, nota storica non solo a livello locale e nazionale, ma anche internazionale, una persona che dà un grande contributo, perché devo dire un aneddoto, mi dispiace, che ci ha aiutato a scoprire tanti tesori della città di Bolzano, li tutela, li conserva, li promuove attraverso le attività del suo ufficio, del suo servizio, ma soprattutto anche attraverso la sua passione e competenza. E per quanto riguarda l'aneddoto, noi eravamo veramente due bambine, tanti anni fa, quando l'ho conosciuta, e in occasione di una bellissima mostra che aveva organizzato su Pinto Costa e Scile al Museo Civico. Devo dirvi che io ero rimasta veramente rapita dalla spiegazione che aveva fatto Silvia in quell'occasione, e devo dire che anche colpa sua se poi mi sono innamorata di tutto quello che è arte, settore umanistico, eccetera, eccetera, e non mi dilungo. Comunque mi fa tanto piacere questa sera averla qui con noi come moderatrice e presentatrice del dottor Guido Spada. Si può conoscere una guerra come la Prima Guerra Mondiale in un altro modo. Abbiamo detto tante volte, anche attraverso altre così, conferenze che abbiamo organizzato, che la Prima Guerra Mondiale è una delle prime documentate in maniera diversa, filmica, con delle fotografie. È una guerra veramente resa visivamente per la prima volta anche per il grande pubblico, e di cui abbiamo dei documenti. Ma quello che diventa interessante è vedere anche come è stata disegnata, dipinta, e come graficamente è stata resa attraverso anche dei prodotti e dei mezzi che entravano nelle case e che portavano dei messaggi particolari, insomma, come le cartoline. Non mi dilungo, cedo subito la parola ai nostri ospiti, che ringrazio ancora una volta di aver accettato il nostro invito, anzi di averlo anche in parte suggerito, perché per me è sempre una fonte di arricchimento. Grazie. Grazie Valeria anche per il grazioso aneddoto, che decisamente non ricordavo, tu sei più giovane di me per quello. Comunque grazie, mi fa molto piacere. E devo dire che questa sera per me, insomma, è una veste un po' particolare, perché ho presentato tanti libri, certo non ho mai presentato un libro di mio fratello, e anche perché i nostri studi non hanno mai avuto prima di questa occasione effettivamente una tangenza, per cui io sono molto felice anche di presentarlo qua a Bolzano, perché mio fratello non vive più qui da molti anni, e pertanto oggettivamente mi trovo in una situazione un po' particolare, ma molto piacevole. Ma al di là degli obblighi parentali, a cui non avrei potuto evidentemente sottrarmi, devo dire anche in tutta sincerità che quando ho visto il libro l'ho trovato molto interessante, perché lui si occupa di Prima Guerra Mondiale, io decisamente no. E leggendolo ho scoperto tante cose interessanti che non sapevo, che probabilmente non avrei avuto modo o occasione di conoscere, perché il libro è strutturato in maniera tale, diviso per argomenti, con le cartoline accompagnate da una didascalia esplicativa anche abbastanza approfondita, e con delle introduzioni che sono molto agevoli da leggere, e come dico si fanno proprio leggere, pertanto si può imparare senza così un impegno gravoso, ma proprio con una leggerezza intelligente. Pertanto mi fa piacere presentare questo libro in particolare. Io non voglio entrare in merito all'argomento, perché sarà ovviamente la presentazione di Guido che ve lo spiegherà, però due parole introduttive e qualche considerazione mi piace farla. Intanto, Pittori per l'impero, di cosa si tratta? Allora, questo libro pubblica una serie di cartoline, che è una selezione della collezione appunto dell'autore, che sono abbastanza particolari perché derivano da quadri, opere d'arte eseguiti al fronte o comunque nel contesto della Prima Guerra Mondiale da pittori, da Kriegsmaler, che erano pittori pagati proprio dall'esercito austro-ungarico per dipingere e rappresentare scene di guerra. La parola rappresentare non è molto corretta a mio parere, perché più di una rappresentazione in senso stretto si tratta proprio di una narrazione e di una interpretazione di un concetto di guerra che poi doveva essere serviva sia ai fini della propaganda, ma anche ai fini di creare un immaginario nella popolazione attraverso appunto queste immagini. E pertanto queste opere d'arte venivano poi appunto riprodotte in cartolina, si differenziano da altri modi storici di dipingere la guerra, perché ovviamente non è la prima volta che viene rappresentata, pensiamo solo ai pittori piattellisti del 600, rappresentavano la guerra, però per esempio a seguito delle truppe napoleoniche c'erano proprio dei pittori e dei grafici che disegnavano le battaglie, per esempio uno che ha lavorato qui localmente è il pittore appunto Baggetti, che ha lasciato tutta una serie di documentati disegni delle battaglie napoleoniche, ma quella aveva proprio il valore proprio di documentazione, mentre qui siamo in questo livello proprio, direi proprio di narrazione e di immaginario, e soprattutto con una destinazione molto ampia, e perché le cartoline ovviamente venivano poi divulgate in grandissimo numero, e pertanto questa immagine della guerra usciva ovviamente sia dal campo di battaglia, ma anche da settori insomma più specifici e interessati. Bisogna ricordare che la possibilità dell'utilizzo della cartolina nei decenni prima della Prima Guerra Mondiale proprio il suo apice. La cartolina postale non illustrata si fa nascere nel 1861, diciamo una convenzione, forse non sarà stata la prima, comunque si considera la prima una cartolina postale che è stata emessa negli Stati Uniti. Però negli ultimi decenni dell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento, quando poi si sviluppa il sistema di stampa rotativa, che era molto economico e che permetteva ovviamente una divulgazione in amplissimo numero, la cartolina postale raggiunge proprio l'apice. Tanto per fare un esempio, nel 1900 a Francoforte una delle migliori ditte che faceva appunto queste cartoline aveva più di 1200 dipendenti, e in un solo giorno poteva far uscire 100 serie diverse di cartoline che poi veramente andavano a coprire tutti i campi possibili e immaginabili. Se qualcuno si ricorda, un paio di anni fa in Galleria Civica, al Museo Civico, c'è stata una mostra dedicata al Krampus, dove una sezione, quella della appunto Galleria Civica, è tutto dedicata alle cartoline illustrate che riguardavano San Nicolò e il Krampus, e anche lì ce n'era una serie infinita. Per cui la cartolina postale diventa, con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, quasi obbligatoriamente un sistema appunto di diffusione per creare questo immaginario. Ecco, poi diciamo tutte le cose più di contenuto di Guido, io volevo però fare ancora un paio di ragionamenti, due perché sono a livello locale, un altro più generale, per cui possiamo passare a vedere la prima cartolina, che è di un artista per noi estremamente noto, Edgar Rienz, che è infatti un Kriegsmaler di assoluto livello. E questa cartolina rappresenta dei soldati in trincea durante la pausa decretata, la pausa dei combattimenti decretata appunto per la festività di Natale. Ci sono 3 giorni, pare 1916, correggimi se sbaglio, insomma, in cui diciamo non si è combattuto proprio in occasione del Natale. E Edgar Rienz fa questa cartolina, il cui quadro originale, che è appunto un olio, si trova però al Museo Civico di Bolzano. Io non sapevo della cartolina, Guido non sapeva del quadro, a questo punto abbiamo messo insieme le due informazioni. Qui si vede molto bene il carattere stilistico di Edgar Rienz, che è un artista di grandissimo livello, che fa molte rappresentazioni della guerra, diciamo anche molto cupe, utilizzando in genere il colore marrone, una monocromia che non lascia ovviamente molto scampo a pensieri vieti, ovviamente sono un modo di rappresentare estremamente anche pesante, che dà proprio questa atmosfera di sofferenza ma anche di sospensione del tempo. E molto spesso il personaggio di Edgar Rienz in questa cartolina è particolarmente significativo: non hanno tratti individuali, cioè non rappresentano l'individuo, ma rappresentano, nell'assenza appunto di una specificità personale, proprio l'umanità, pertanto nel suo insieme e nelle sue sofferenze. Ci sono tanti altri pittori di guerra, anche pubblicati appunto sul libro, che danno interpretazioni del Natale in maniera molto più olografica, molto più da cliché, addirittura con gli alberelli di Natale e così via. Qui Edgar Rienz è lontano invece da queste rappresentazioni molto edulcorate e sceglie un sistema completamente diverso. Le altre due cartoline mi hanno molto interessato, perché appunto io non conoscevo, devo dire, questo artista, che si chiama Richard Moser e che è un artista viennese vicino alla secessione di Vienna, come si può vedere insomma anche nel tratto molto accurato e in alcuni casi anche nella scelta del lettering, del carattere tipografico, che rappresenta degli artigiani, cioè dei mutilati, scusate, appunto dei mutilati di guerra, che sono intenti a reimparare un lavoro di tipo artigianale che fosse possibile e compatibile con la loro nuova situazione, per poter sperare di avere poi un inserimento nella società e una nuova vita. Ma perché mi ha colpito questa rappresentazione? Perché leggendo il libro di Guido leggo che questa nuova istruzione a questi mutilati veniva impartita nelle fasciule, e questo mi ha interessato veramente molto. Cosa sono le fasciule? Sono un sistema di scuole professionali assolutamente all'avanguardia, diffuso in tutto l'impero austro-ungarico a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, nel periodo di massima diffusione del fasciule, ce ne sono circa 150 nel territorio dell'impero, per cui è effettivamente una presenza importantissima. E in queste fasciule si creavano artigiani di grande livello, artigiani che si specializzavano in genere nelle lavorazioni tipiche delle varie zone, e poi dopo la fasciule si amplia anche a per costruttori edili, non so, per chi si occupa di vestiti, tessuti, di lavatorie. Comunque era una scuola professionale che, a fianco della formazione proprio tecnica, teneva però anche in grande considerazione la formazione culturale dell'artigiano. Pertanto ne uscivano personaggi effettivamente estremamente interessanti. A Bolzano la prima fasciule viene fondata nel 1884 e poi dal 1901 avrà sede nell'ex convento dei Domenicani, che era stato soppresso. Allora, perché mi ha incuriosito? Perché nell'ex convento dei Domenicani accade nel 1916 una cosa molto interessante. Proprio a causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, Lorenz Böhler, allora era un giovanissimo medico chirurgo, riesce, dopo una serie di vicissitudini, a creare un ospedale per i feriti da traumi proprio nella guerra, per i soldati feriti che avevano soprattutto ricevuto traumi agli arti, perché lui era specializzato in traumatologia e ortopedia. In questo ospedale riesce a mettere a punto dei sistemi innovativi di cura che fanno fare un balzo veramente in avanti a tutti diciamo la medicina del settore, la chirurgia del settore, perché lui riesce a limitare molto le necessità di amputazione, perché precedentemente se c'era qualcosa che non andava, insomma, si amputava e basta. Riesce ad aggiustare molto meglio le ossa, soprattutto delle gambe. Prima in genere c'erano accorciamenti anche di 10-15 cm, lui lo riduce a 2-3 cm, e per fare questo crea anche proprio degli strumenti, cioè degli strumenti di trazione, degli altri strumenti appunto per poter intervenire su di questo, e lo fa utilizzando proprio le officine della fasciule che aveva appunto sede nell'ex convento dei Domenicani, dove lui ha il suo ospedale. Per cui mi è sembrato estremamente interessante vedere come questo rapporto con la fasciule venisse poi diciamo normalmente utilizzato, e queste scuole proprio veramente importanti hanno una ricaduta anche proprio specifica nei casi appunto dei feriti della Grande Guerra. E se questi erano due elementi che mi hanno riportato alla storia locale, il terzo invece non c'entra assolutamente nulla, siamo completamente in un mondo completamente diverso, ma questa cartolina pubblicata appunto nel libro di Guido è estremamente interessante a mio parere, perché dà un'interpretazione diametralmente opposta rispetto a quella che era appunto dei Kriegsmahler, e viene anche creata in un contesto completamente diverso. Infatti si tratta di una delle 54 litografie che Alberto Martini crea proprio allo scoppio della guerra, con un forte carattere anti-austriaco e con un approccio verso la guerra completamente diverso rispetto a quello che viene appunto rappresentato nelle cartoline dei Kriegsmahler, per cui abbiamo una denuncia molto profonda dei danni della guerra, utilizzo di uno stile profondamente simbolico o espressionista, cosa che non troveremo mai nelle cartoline appunto dei Kriegsmahler. Ma l'ho scelta perché Alberto Martini è un artista, pittore e soprattutto grafico, tra i più importanti del Novecento italiano, che credo che invece non sia adeguatamente conosciuto. Credo che rimanga nella cerchia un po' degli intenditori, nonostante sia un artista veramente eccezionale. E pertanto mi permettevo di suggerirvi una visita alla Pinacoteca, che è a lui dedicata nella sua città natale, che è Oderzo, dove si possono vedere sia tutte le 54 litografie della Danza Macabra, così si chiama la serie, che è un'altra serie di opere appunto grafiche che gli rendono merito e che a mio parere insomma vanno veramente valorizzate e conosciute. Con questo io concludo e adesso lascio la parola a Guido per entrare proprio nel merito del volume da lui pubblicato. Grazie. Grazie per una bella introduzione. Io vorrei ringraziare innanzitutto il pubblico che questa sera è qui presente e che è venuto ad ascoltarmi, e chi ha voluto, dottoressa Trevisan, questo incontro. Quindi grazie a tutti voi. Io leggerò alcune cose e poi vediamo una serie di cartoline che verranno illustrate via via. Premessa: le motivazioni che hanno spinto il sottoscritto a intraprendere questa avventura è quella nata dal desiderio di voler avvicinare il grande pubblico a questo particolare settore del collezionismo, avente per oggetto la Grande Guerra, ossia la cartolina. Le cartoline in questo volume diventano le fonti privilegiate per conoscere, per rappresentare il fenomeno della grande guerra con un approccio, se non nuovo, certo non usuale. Le cartoline non solo come veicolo per comunicare con i propri cari le proprie speranze, paure o sentimenti, ma come veicolo di propaganda, sono immagini che trasmettono una legittimazione della guerra e delle sue sacre motivazioni. Vogliono trasmettere a chi invia e a chi le riceve una certezza e una speranza che il conflitto abbia esito positivo e che si possa ritornare alla normalità. Vorrei iniziare questo incontro leggendovi alcune righe tratte da Problemi di guerra. In questo caso non si parla di quelli austriaci, ma ben evidenzia la forza di comunicazione che ha l'arte. La guerra non è niente, è un fatto muto che diventa eloquente solo se la parola l'esprime. E non c'è parola più evidente e persuasiva e commovente dell'arte. La sola che duri nella gloria, nella storia. Governo, editori, artisti tutti mobilitati, così che oggi per la sua guerra si è formata nel mondo una voce così forte e viva, e della sua guerra si è formata nel tempo un'immagine così ricca e profonda, che di tutta la guerra europea questa sola appare oggi, siamo nel 17, e sembrerà domani che sia esistita. Quindi la forza dell'arte nel trasmettere ai posteri quanto successo in guerra. Uno degli aspetti forse di maggiore interesse di questo volume è quello di aver documentato il racconto della grande guerra dalla parte di artisti al servizio degli imperi centrali, Austro-Ungheria e Impero Germanico, che alla fine del conflitto risulteranno essere i perdenti. Le cartoline dunque come piccole opere d'arte che riproducono fedelmente dipinti realizzati in massima parte da artisti noti di gran talento e fama come il modernista Edgar Rienz, paesaggista Carl Ludwig Prinz, Carl Maria Schuster e molti altri. Esse rappresentano con alta qualità di stampa l'intento dell'artista nelle sue diverse proposte espressive, in alcuni casi dolenti, altre volte eroiche e tragiche nel contempo, in ogni caso espressione dell'animo dell'artista che in quel momento documentava una triste realtà, la guerra. Mentre l'utilizzo della fotografia serviva essenzialmente per illustrare uno specifico avvenimento bellico di vita o di vita quotidiana, sia al fronte che nelle retrovie, la cartolina non vuole rappresentare la cruda realtà, un momento specifico, datato e ben inquadrato nel contesto storico. È al contrario l'espressione dell'interiorità dell'artista, di un momento emotivo vissuto in prima persona dal pittore nella sua veste di Kriegsmaler. Ogni artista ha un suo modo tutto suo di rappresentare quanto da lui visto. Erano al fronte e quindi erano testimoni di eventi e vissuto in prima persona. La cartolina esprime la sua linea pittorica, la tecnica usata, la tendenza artistica del momento, quindi opere d'arte. Come non emozionarsi di fronte alle opere di Albin Edgar Rienz, forti della loro interiore certezza, della dolcezza un po' di maniera di Gustav Benesch, dei paesaggi alpini del fronte tirolese dolomitico di Carl Ludwig Prinz e quelli di Carl Maria Schuster, ricche di forte realismo sentimentale. Mi è stato difficile scegliere diverse cartoline che meglio illustravano ogni singolo argomento, data la vastità della documentazione oggetto della cartolina illustrata. Mi sono limitato ad alcuni specifici argomenti che ho ritenuto essere alcuni noti al grande pubblico, altri più specifici e materie di specialisti. Ho a priori scartato la documentazione riguardante il fronte orientale e sudorientale, ossia il fronte che dal Mar Baltico raggiungeva le rive del Mar Nero, limitando la scelta ad argomenti che maggiormente potessero interessare il lettore italiano. Si sono scelte alcune cartoline aventi per oggetto le operazioni militari sud fronte sud-occidentale, Trentino Tolomitico, le operazioni della flotta operante nel Mar Adriatico, l'utilizzo dei nuovi mezzi aerei, la conquista del Montenegro e della parte nord dell'Albania, il coinvolgimento dei riservisti sul fronte Dolomitico, gli Starships. Ma non potevo dimenticare l'esigenza religiosa e spirituale operata dai cappellani militari, l'impiego dei cani nel soccorso ai feriti, l'utilizzo degli stessi per il trasporto di piccoli materiali, la meritevole opera dei reparti della logistica, della sanità, dei trasporti, eccetera, necessarie le truppe combattenti operanti in prima linea. Se non lo sapete, in genere un soldato al fronte, tre che servivano per poter fare la guerra. Ma non vanno pure scordati quei momenti di relativa tranquillità, come il periodo natalizio e pasquale, con l'invio ai propri cari di cartoline augurali ricche di suggestione che ci invitano molto spesso a riflettere. Alla gioia subentrava presto la sofferenza di chi stava a casa, donne, vecchi, bambini, che spesso dovevano sopportare l'allontanamento dalle proprie abitazioni, rifugiati in terre lontane, come gli abitanti di Vermiglio in Val di Sole. Mi necessita ora fare alcune brevi considerazioni per meglio comprendere il valore della cartolina illustrata. Con la riforma teresiana del 1774, tutti i sudditi dell'impero dovevano frequentare la scuola primaria obbligatoria e conseguentemente tutti sapevano leggere e far di conto, sebbene con qualche difficoltà, nelle aree rurali più profonde. Mezzo di propaganda cartolina come mezzo di propaganda di grande impatto visivo, che aveva come scopo quello di far conoscere alle popolazioni alcuni fatti d'armi ritenuti validi per il morale delle popolazioni, propaganda volta a convincere la popolazione ad accettare determinati eventi. I pittori avevano libertà creativa e le loro opere possiedono una forza di percezione incredibile e, cosa più importante, immediata, è in grado di arrivare a un pubblico molto vasto, suscitando in chi la guarda sentimenti forti che superano il filtro delle riflessioni e arrivano ad agire rapidamente sulla coscienza e sul pensiero. Ma chi erano i Kriegsmaler, ovvero i pittori di guerra? A Vienna, nel corso del conflitto, prende vita un'esperienza unica quanto straordinaria. Il maggior generale Max Ritter von Hoehn, comandante dell'Imperiale Belgio Ufficio Stampa di Guerra, ebbe l'idea di formare un Kunstgruppe, un gruppo artistico composto da pittori e scrittori, c'è anche la parte poi Musil e quant'altro, a cui affidare un'intensa attività di propaganda attraverso le loro opere artistiche e i loro scritti. Inquadrati come ufficiali dell'esercito, formavano un proprio corpo di pittori, ufficiali col grado di tenente, e forniranno un'unica quanto variegata rappresentazione pittorica della guerra. Compito dei Kriegsmaler era quello di esaltare il patriottismo dei soldati, rafforzare il morale del fronte interno, molto importante, fissare dal vivo azioni militari, atti di valore, momenti di vita al fronte, come i Gerlins, e non solo, ma anche opere paesaggistiche inerenti a diversi fronti di guerra. Molti pittori dipingevano i paesaggi del fronte. Questo è importante. Erano obbligati a fornire un determinato numero di opere, 5 almeno, oltre il detto numero, minimo 5, erano liberi di vedere, di vendere le loro creazioni con delle mostre che mi pare anche a Bolzano è stata fatta. Nel 1917 è stata fatta nella Elisabethschule, nella scuola Dante. Obbligo tassativo, questo era molto importante. Era vietato ridicolizzare o disprezzare il nemico, cosa che non avveniva con le cartoline di Martini. Esagerare le sconfitte inflitte, mai esagerare sulle sconfitte inflitte o subite, perché hanno dipinto anche sconfitte a fondamento di navi e quant'altro. Ricercare effetti banali e non corrispondenti alla realtà. Ecco, questo era, diciamo, all'interno dei loro obblighi, era tassativo che facessero dei quadri che non fossero, che non avessero un'esagerazione, che fossero più o meno realistici. Tra i pittori inquadrati nel suddetto reparto vi erano Helgo Schiele, Oscar Kokoschka, Alfred Kubi, Alfons Walde e tanti altri, e quelli che abbiamo anche citato. Quindi già vi dà l'idea dell'importanza che questo, diciamo, settore aveva per l'impero, per le, diciamo, per la propaganda. Spero che questo volume, pur con tutte le limitazioni, sono un numero molto limitato di cartoline rispetto alla mia collezione, possa svolgere una funzione importante, aiutarci ad avvicinarci a un tema così complesso utilizzando uno strumento semplice ma diretto come le fu la cartolina illustrata. Auspico che questo incontro possa essere fonte di riflessione su come la cartolina, frutto dell'opera del pittore, abbia saputo esprimere il crudo realismo della guerra con forme allusive attraverso l'imitabile forza della pittura, così lontana e diversa dalla verità dell'immagine fotografica. E qui iniziamo. Abbiamo queste due belle cartoline che illustrano, qui c'è un piccolo errore, sono cartoline di Carl, vediamo un attimino, sì, si legge l'autore, Carl Maria Schusterberg. Prinz, ecco, questo qui è Carl Ludwig Prinz, no, perfetto, perfetto, qui non ci vedo bene. Riproducono, ecco, qui abbiamo due belli esempi di cartoline che una diciamo raffigura un paesaggio, della Val di Sonda, quindi al di là del fronte, e comunque il pittore vuole far conoscere al grande pubblico di dove era il fronte. Invece abbiamo di sotto, si vede un fabbro intento a ferrare un cavallo aiutato dalle operazioni da un militare. Anche questo non vuole esprimere quello che era la guerra, ma quello che succedeva dietro le linee, dietro la prima linea. Quindi abbiamo altri due bellissimi esempi di pittura paesaggistica. Uno che raffigura praticamente, vedete, queste bianche sono delle divise, quindi sono degli indumenti perché venivano, diciamo, sterilizzati, mentre sotto, ecco, questa è già più realistica, ci fa vedere un piccolo cimitero da campo allestito dietro il fronte dolomitico, con, vedete, al berello una recinzione e una croce in centro. Questi erano dei piccoli cimiteri diciamo allestiti in tutta fretta dietro il fronte delle prime linee. Carl Maria Schuster è un pittore viennese nato a Purkendorf, morì a Vienna nel 1953. È interessante anche perché ha frequentato gli studi a Vienna e nel 1902 divenne membro della scuola che raggruppava gli artisti viennesi e dipinse numerosi quadri della Val Sucana e degli altri luoghi. Visitò anche a suo tempo Grado e le località friulane prima dell'inizio dello scoppio della guerra. Sotto, come potete vedere, invece abbiamo una rappresentazione di, diciamo, di guerra, perché in questo caso notiamo un soldato che è di vedetta nelle trincee, e qui c'è anche la località precisa che siamo riusciti a individuare, perché il dipinto è molto fedele e quindi la cresta è quella di Saste della Unges e sono in zona di Ampezzo. Altro bellissimo dipinto, vediamo qui un soldato di vedetta, siamo verso il passo dello Stelvio e all'interno di un riparo abbiamo un pezzo d'artiglieria d'alta montagna che faticosamente veniva portata molto spesso con mezzi, anche cavalli ma anche a mano, sul fronte più elevato che dominava in questo caso una valle. Ecco, questo le ho messe perché sono due interessantissime cartoline che illustrano due aspetti diversi. In questo caso è diciamo a tinta rossa, un disegno di due figure, cioè tipiche figure di soldati di Stanschützenat tirolesi, che ben rappresentavano quello che era il riservista, le truppe che furono chiamate, anche se ormai avevano superato gli anni regolamentati. Di qui accanto abbiamo a Col di Lana un soldato di vedetta che diciamo riserva una figura combattente al posto di sentinella. Sul Feldkappe c'è anche un distintivo, un Edelweiss. Sempre qui abbiamo ovviamente due rappresentazioni austriache di propaganda, evidentemente una proprio di propaganda in cui Andrea Soffer, il loro eroe nazionale, saluta con la bandiera tirolese le truppe che si dirigono al fronte, i Kaiserjäger, che vengono con la loro bandiera regimentale e sventa, quindi ha un'idea di movimento, cioè di persone che stanno andando verso il fronte sicure della vittoria e che salutano il loro eroe. Questo qui invece è un altro bel disegno, bella rappresentazione di un vecchio Stammschutz, cioè quelle milizie territoriali, che sul petto vede con orgoglio porta una medaglia, in questo caso ricevuta per eventuali altre campagne di guerra. Si vede che è militare dal nastrino giallo e nero, mentre per i civili era bianco, rosso e bianco. Quindi qui nel libro io ho voluto poi anche diciamo intitolare un piccolo capitolo sulla legge e strategia d'alta montagna. Perché la guerra in montagna, a differenza di quella che poteva essere una guerra sul fronte occidentale o sull'Isonzo, non era una guerra di movimento, molto spesso una guerra di posizione, con azioni di piccoli gruppi che cercavano di conquistare la parte sempre le vette o cercavano di conquistare posizioni più elevate per poter poi tenere sotto tiro il nemico. Quindi diciamo non grandi battaglie come sono state sull'Isonzo con migliaia di morti, ma combattimenti più contenuti che però rimasero tali fino alla fine della guerra. Qui abbiamo un bel cane, ecco, i cani venivano utilizzati sia per come corpo di sanità come per i trasporti e non solo. È interessante notare come, a differenza delle razze canine, si venivano utilizzati i cani più aggressivi, venivano utilizzati per difesa di posizioni, quelli più robusti per il trasporto, quelli più di indole più docile per i cani di sanità, perché erano più inclini ad avere un comportamento. Come non va più avanti? Si è bloccato, non va più. Abbiamo bisogno di un tecnico. Ai. Salvateci, se no dobbiamo mimare tutto quanto, diventa un po' complicato. Lo rimettiamo a posto. Questo? Sì, può mettere anche questo, sì. Sì, andiamo avanti. Adesso vediamo. Ecco, andiamo avanti. Ecco, sì. Qua ci va bene, ecco, torniamo. Mettiamo questo, lo rimettiamo. Togliamo via questo, ecco, sì, ecco. Presentazione, scusate, ma si è un po', ecco qua, ritorniamo, intanto anche il computer hanno la loro filosofia di vita. Qui abbiamo altri belli esempi. Vedete, quello che volevo dire io, queste cartoline non rappresentano in effetti quello che era la dura realtà della guerra, sono più che altro in questo caso allegoriche, perché venivano inviate a casa, quindi facevano vedere il soldato di guardia bene attrezzato, bene coperto con un mantello per il grigio prima e montano. Qui invece è una classica cartolina di propaganda, tanto leggete, vedete, è una propaganda, non penso che combattimenti del genere non siano mai esistiti, ma comunque abbiamo da una parte più elevata un gruppo di austriaci con la Schwarzlose, con la mitragliatrice, pronti a difendere la posizione dall'attacco degli alpini. In genere l'aquila che vola, in molte cartoline viene messa anche l'aquila che vola, che è il simbolo del Tirolo, e sembra che sta a significare che l'aquila, cioè la patria Tirolo, vi sorveglia e vi conduce alla vittoria. Quindi era allegorica la presentazione. Ecco, invece parliamo di una cosa invece ben diversa, l'assistenza religiosa. E a tal proposito vorrei leggervi due mie riflessioni sull'assistenza religiosa. Ecco, un capitolo spesso dimenticato dagli storiografi militari è quello legato all'assistenza religiosa fornita da molti cappellani militari ai soldati impegnati al fronte o dislocati temporaneamente nelle seconde linee. Qui siamo al fronte, qui. Noi non possiamo immaginare neanche lontanamente quanto amara, quanto cruda, quanto terribilmente solitaria doveva essere la morte in quella guerra, combattuta tra rocce, ghiacciai, cime e valli innevate. Ci risulta spesso incomprensibile la fede, la fiducia in Dio dei combattenti tirolesi e non solo, e ciò vale anche per le truppe alpine italiane, per gente quindi di montagna, da sempre profondamente religiosa. L'assistenza religiosa quindi come uno dei punti validi di sostegno per il combattente, che il combattente avesse a sua disposizione. E molti di essi devono la loro vita all'energico comportamento dei cappellani militari, che con essi condividevano le stesse fatiche e gli stessi orrori della guerra. Questo vale sia per il campo, ovviamente, austriaco, diciamo, imperiale, che per la parte italiana. Anche gli italiani avevano i cappellani militari che hanno prestato meritevolmente la loro opera. Quindi non è questione di... qui è questione solo di sentimento. Il cappellano militare, Ortner, aveva anche così espresso alcune sue considerazioni, dicendo che il soldato tirolese è un bambino nella fede, cioè fa alcune considerazioni che potrebbero andare bene anche per quelli italiani. Un uomo al posto assegnatogli, il montanaro esegue sempre in maniera precisa gli ordini che riceve, un camerata in trincea, come gli alpini, un tiratore infallibile, questo vale per uno e che per l'altro fronte. In linea di sparo, un leone del combattimento ravvicinato, un soldato della morte, e insieme pieno di semplicità primitiva e originalità. Ripeto, questo concetto del soldato di montagna vale per qualsiasi combattente. Qui sotto abbiamo invece una bella rappresentazione di una messa al campo che stanno celebrando. Molto spesso le messe venivano celebrate prima di inviare i soldati al fronte. Sull'altopiano d'Asiaco c'era la cappella dedicata a Zita, in cui facevano la messa e poi partivano al loro tragico destino. Altro interessante, nel volume ovviamente ce ne sono molte di più, è il corpo di sanità. Cioè, noi pensiamo sempre al soldato al fronte, ma vi erano anche chi doveva poi soccorrere i feriti. E qui le ho messe due cartoline antitetiche, diciamo. Da un'una abbiamo un primo posto di soccorso, vedete soldati laceri, certamente non in condizioni igieniche ottimali, che attendevano di essere poi trasferiti negli ospedali di seconda linea e più gravi nei lazzaretti, mentre dall'altra parte, qui abbiamo dei soldati, quindi praticamente della truppa, dall'altra parte abbiamo un ufficiale, il quale è ricoverato in una bella clinica, penso di Vienna, perché quel scorcio dalla finestra, mi sembra che sia San Carlo Borromeo di Vienna, per chi è stato forse lo riconosce, e vedete la differenza che c'è molto spesso tra la truppa e l'ufficiale, che tutto sommato, se di alto grado, ha delle, diciamo, delle attenzioni maggiori. In questo caso addirittura abbiamo un bel letto, i fiori, una cosa un po' forse troppo adulcorata, perché la realtà del ferito era ben diversa. Altro dolorosissimo capitolo che io ho voluto inserire in questo piccolo volume è il problema dei rifugiati e degli sfollati. Qui ho messo questa cartolina famosissima degli sfollati di Vermiglio, quindi le truppe austro-ungariche, diciamo, trasferirono tutta la popolazione nell'Alta Austria e rimasero fino al 18 in condizioni non certo molto diverse dai prigionieri, quindi avevano delle grandi sofferenze, in 4 e 48 quelle poche cose che avevano e via. Questo vale anche naturalmente per il fronte galiziano, addirittura in quella zona dove le avanzate e le ritirate erano di centinaia di chilometri, per chi è stato in quelle zone sa come sono, com'è la situazione geografica, per cui paesi interi venivano evacuati. E quindi qui abbiamo un bel esempio, Flüchtlinge, quindi queste cartoline che venivano diciamo edite e vendute a 5 corone il pacchetto, servirlo per aiutare queste popolazioni di sfollati e di fuggitivi. Ecco, altro piccolo capitolo che io ho voluto inserire io li ho chiamati gli eroi silenziosi. Perché eroi silenziosi? Perché molto spesso noi ci dimentichiamo di loro, parliamo sempre dei soldati, per le battaglie, dei rapporti fatti da diari di guerra, però chi rimaneva a casa molto spesso soffriva più del soldato. Ovviamente non aveva la paura di morire, ma molto spesso aveva anche la paura di morire di fame. Quindi abbiamo degli eroi, donne, bambini, che faticosamente cercano di portare avanti la produzione agricola, cavalli ormai non ce n'erano più, molto spesso erano requisiti per poter utilizzare al fronte o macellati. Poi abbiamo invece anche gli invalidi, coloro che ormai hanno subito una menomazione più o meno grave, particolarmente agli arti superiori o agli arti inferiori, a cui appunto le fasciule e diciamo avevano l'obbligo di dare loro un nuovo mestiere e di poter vivere dignitosamente del proprio lavoro e di non essere quindi a carico della società. Vedete qui è altro esempio, quindi cittadini, non sono più campagnoli, ma sono cittadini che come possono aiutare il soldato al fronte, come possono aiutare l'economia di guerra nel loro paese, dando tutto ciò che avevano di metallo, quindi rame, piombo, ferro. Nella cartolina è ben evidenziato che questo è un centro di raccolta, c'è già un carrettino pieno, ma anche questo naturalmente contribuivano allo sforzo bellico, ma le facce che vedete non sono di gente molto allegra, è gente che porta tutto ciò che ha per dovere più che proprio per volontà. Questa invece è Svizzera, stranamente l'ho messa perché ha un suo significato. La Svizzera, non essendo una nazione belligerante, cercò di contribuire alla sofferenza anche delle popolazioni che poi avevano oltrepassato il loro confine, cercando di dare un sollievo. Quindi ci dice: non sprecate qualsiasi briciola di pane che può servire appunto a dare un sollievo a questi poveri fanciulli. Trasporti. Due cartoline molto belle, a mio giudizio. Abbiamo un trasporto con cani, quindi piccoli materiali che venivano spediti al fronte, di varia natura, ovviamente non molto pesanti, che però contribuivano magari pacchi di viveri, indumenti o altri attrezzi utili a chi rimaneva in trincea. Sotto invece abbiamo purtroppo un trasporto. Vedete in quali condizioni spesso venivano trasportati i feriti, che in questo caso con un carretto trainato da cavalli, ovviamente un trasporto non dei migliori per un ferito. altri trasporti, sono trasporti ovviamente che venivano svolti dalle truppe in sussistenza per portare munizioni e pezzi d'artiglieria nella seconda cartolina al fronte. In questo caso siamo proprio sul fronte dolomitico e con molta fatica questi soldati della sussistenza, diciamo delle compagnie di trasporto, portavano munizionamento ai loro commilitoni al fronte. Siamo arrivati a Natale in trincea. Io vi ho messo questa piccola lettura che voi potete leggere, abbastanza anche comica, tratta da un diario di un soldato, il quale questo diario racconta anche un po' quello che sono state le sue giornate natalizie. Il 16 giornata, la leggete, comunque è molto interessante perché il 25 dicembre, come particolare premio natalizio, dovremmo scaricare alla stazione San Michele all'Adige 6 vagoni di bombe a mano. Questo come regalo natalizio, ovviamente la mattina messa, e in genere raggio migliorato voleva dire che c'era un po' più di carne. Ecco, gli davano magari un po' anche un dolce, ovviamente il solito goulash e quant'altro, perché nel 16 probabilmente era a casa, nel 17 pure, e nel 18 non so che fine abbia fatto. Comunque lui testimonia. Ecco, queste sono quelle cartoline un po' così che volevo far vedere, che il Natale anche in trincea viene in qualche maniera diciamo, celebrato. Ecco, questa è interessante, questa cartolina, perché vedete il soldato che esce dalla trincea, vedete tutti i soldati cercano di uscire dalla trincea, è un po' allegorica, cioè salutano il nuovo anno sperando che ci sia la fine della guerra. Quindi i soldati escono, si sembra che escano dalla trincea, da quel senso di dire abbandoniamo il fronte perché la guerra è finita, cosa che non avvenne, ma era una speranza. Questa è molto bella perché è allegorica. Qui abbiamo altre scene, alcune anche come questa tristi, perché questo è un Natale che è di sofferenza, perché loro, questi due commilitoni, si ricordano probabilmente dei loro commilitoni caduti in guerra. Quindi è un Natale, sì, c'è l'alberello, ma è un Natale di tristezza. Questa invece è più, diciamo, il Natale è vissuto in maniera diversa. Siamo in una baracca, come si chiama in termine tecnico, c'è l'alberello di Natale, ci sono i dolci, c'è la zia armonica e la fisarmonica, e poi vedete un soldato qui che legge probabilmente la lettera ricevuta a casa. Quindi è un gruppo ovviamente della stessa compagnia, dello stesso plotone, che festeggiano in maniera diciamo semplice, però con tutte quelle, diciamo, quelle caratteristiche che deve avere un Natale: quindi lettera, dolci, uno fuma la pipa, uno suona. Questa è una, questa qui è stata scritta da un famoso diciamo poeta salisburghese. Non è tanto quello che ha scritto quanto questa immagine del soldato in trincea che non guarda il fronte, vedete, non guarda il nemico se c'è, ma il pensiero va al suo Natale in famiglia. Lassù lui si ricorda di quando a casa festeggiava il Natale con i suoi. Infatti, per il tempo natalizio e per la Santa Notte, molti stanno fuori in fedele guardia e si festeggiano la nascita del Signore lontani per la prima volta dalla patria. Quindi questo soldato si ricorda dell'ultimo Natale fatto in famiglia. Qui sto per concludere. Ovviamente è giusto anche mettere in evidenza quelle che erano le nuove tecniche militari. Non è tanto, vedete, anche questo non rappresenta chissà quale combattimento, ma a mio giudizio ha una forza pittorica notevole. Questo aereo che si vede, non si vede, se ben guardate, e lui sta ritornando dopo un'azione, però il pittore ha voluto dare anche un senso di movimento a questo aereo, almeno io lo interpreto così, poi voi potete anche vedere. Secondo me è bellissima, questo è un quadro che vorrei vedere a casa. Poi c'è la Marina, ovviamente anche noi, la Marina ha avuto un'importanza secondaria, ma che però per gli italiani ha avuto anche una grande importanza, sia perché all'inizio la Marina ha bombardato la linea ferroviaria che andava dalla Puglia a Venezia per interrompere i rifornimenti, ma anche per l'affondamento del Garibaldi, che costò la vita a migliaia di italiani che venivano trasportati dall'Albania verso l'Italia. Quindi abbiamo le Croce Rossine, anche qui l'esempio della Croce Rossina che è impallida anche in un combattimento, soccorre i feriti. Questo per esempio, qui abbiamo un abbattimento dirigibile, ecco, l'ho voluto mettere perché anche i dirigibili hanno svolto un'azione di guerra notevole. Anche questo è un dirigibile italiano che, dopo aver bombardato una fabbrica vicino a Fiume, nel ritorno venne abbattuto dal idrovolante. Però si salvarono e vennero soccorsi e portati in salvo l'equipaggio da parte della Marina austriaca. La corazzata che ha bombardato Senigallia, questi sono episodi forse non molto conosciuti, ma è proprio alle prime ore della dichiarazione di guerra, cioè il 24 maggio, alle 2 era partita la squadra navale da Pola per bombardare diversi obiettivi lungo le coste. Ovviamente anche i sommergibili sono importantissimi, tanto vero L4, questo è lo stemma della Marina dei sommergibilisti austriaci, perché la bandiera della Marina non era gialla e nera, ma aveva i colori rossi e bianchi, e lo stemma centrale. Attacco alle coste italiane, sempre sono quadri che non rappresentano la vera realtà, queste sono tutte rappresentazioni pittoriche di un evento bellico, per cui molto di propaganda, vedete questi qui che volano, le navi abbattute. Fronte albanese, perché l'ho messo? Fronte albanese perché anche gli italiani ebbero una forte importanza, un ruolo nei primi anni di guerra, soprattutto dopo il 16, quando l'Albania venne conquistata dalle truppe austro-ungariche, riuscirono a portare in salvo parte dell'esercito serbo, anzi molta parte dell'esercito serbo, e quindi per poter, e poi conquista del Monte Lovce. Forse qualcuno di voi è stato sulle bocche di Cattaro, sa benissimo che la conquista di questo monte ha significato la cessazione dell'ostilità da parte delle truppe montenegrine, che in pratica in 2 settimane chiesero l'armistizio, perché impossibilitati, una volta conquistato questo monte che sovrastava la capitale Cetinje, si dichiararono sconfitti. Termino con qualche cartolina veloce. Cosa ho voluto mettere nel libro? Anche un attimino quelli che furono i nostri avversari, i due imperatori, il comandante delle truppe Ötzendorf, il comandante, diciamo, il capo stato maggiore, e dopo, in seguito, dopo, nell'ultimo anno di guerra, comandante in fronte tirolese, e il comandante Borojevic, che è quello che si contrappose alle truppe italiane di Cadorna nelle 11 battaglie, nelle 12 battaglie di Risonzo, e poi sul Piave, nella parte meridionale del Piave, quindi era comandante del gruppo Borojevic, detto anche il leone dell'Isonzo. Bisognerebbe anche tenere qualcosa di più allegro, quindi queste cartoline anche erano dissacratorie. Vedete questo qui che si fregano il maialino, è una bella visione di questi soldati. In fondo abbiamo la rappresentazione di un goulash canone, cioè di quelle cucine da campo chiamate goulash canone perché davano solo quella brodaglia, oppure umoristi, diciamo in questo caso erano ancora convinti di poter vincere la guerra. Nel primo anno di guerra vedete i due belligeranti, diciamo, contro gli altri belligeranti, il francese, il russo, l'inglese e il belga, mi pare, e li fanno scacco matto, e loro rimangono allibiti perché questi 2, 4 e 48 li hanno fatto scacco matto. Pio Desiderio, che non si è sicuramente avverato. Altre belle figure sono le caricature. Le caricature perché anche diciamo c'era quella parte, soprattutto che vista dai soldati, dei loro superiori, il generale di stato maggiore, tutto bello elegante, l'ammiraglio con la sua bella pancia, Nel libro ovviamente ve ne sono anche molte altre. Termino con alcune italiane, l'ho messa perché io mi auguro il prossimo anno di poter realizzare il secondo volume che riguarderà invece le cartoline satiriche di propaganda italiane, quindi diciamo un augurio per me, per voi spero, di poterlo stampare più presto. Vedete la differenza? Queste sono questa è interessante. In questo caso abbiamo la Santa Alleanza tra socialisti, tutto rosso e nero, la Chiesa, che ovviamente a quell'epoca non era molto favorevole alla guerra, anzi era molto contraria, però nella cartolina bisogna far vedere che anche la Chiesa era unita, e poi l'esercito, quel piccoletto lì, quindi le tre componenti della società, il socialismo, i cattolici e l'esercito uniti contro l'Austria, dà proprio un'idea dell'unione del popolo italiano per la vittoria. Poi qui abbiamo altre due, una triste e una comica. Questa qui vediamo che D'Annunzio, no? Le potete leggere tranquillamente, qui non riesco a leggere. Così, vedete, le cartoline italiane a volte sono completamente, queste sono di satira e propaganda, che io ne ho parecchie e che vorrei appunto pubblicare, perché molte di queste non sono state mai pubblicate. Dall'altra parte invece abbiamo una cartolina piuttosto particolare. Quando le truppe austro-ungariche sfondarono Caporetto, ovviamente arrivarono al Piave, quindi conquistarono tutto il Friuli e parte del Veneto orientale. In questo caso ovviamente vediamo come le truppe d'occupazione, quindi c'è un bosniaco e degli austriaci, o omveri ungheresi, molti erano ungheresi, che brindano e festeggiano con quello che hanno razziato in questa casa di contadini, mentre il povero contadino e poi la povera famiglia, vedete che non c'è l'uomo, perché l'uomo è passato oltre il Piave, quindi è sulla linea del fronte contro gli austriaci. Chi è rimasto a casa? Il vecchio, la donna e la mamma e i suoi figlioletti. E qui abbiamo un caminetto, un larin come lo chiamano, vuoto, dove non c'è nulla. Quindi questa è chiamata anche l'arma della fame da quelle zone per testimoniare la tristezza delle truppe di occupazione. Io con questo ho finito, mi auguro che questa brevissima carrellata, che ho cercato di contenerla, sia stata di vostro gradimento. Se poi qualcuno desidera approfondire gli argomenti, nel libro ce ne sono 220. Io qui ovviamente ho messo le più. Ci ho fatto grazia. Non ne potevo mettere più. Se qualcuno che ha qualche domanda, sono qui. È anche bello sentire se qualcuno ha qualche curiosità, se no vi ringrazio. Quante sono le cartoline che ha raccolto? Allora, le cartoline, come diceva mia sorella, in quel periodo sono state milioni e milioni, tutti gli eserciti, soprattutto l'austro-ungarico, poi ne ha fatte molte, quindi avere una collezione completa è impossibile, sarebbe un desiderio assoluto che non si realizzerà mai. Io ne ho circa 3.000 e spero col tempo di aumentare di anno in anno, e io dico sempre che il collezionista è un custode temporaneo del bene. Purtroppo non posso portarmene nell'aldilà e neanche farmi una piramide mettendo dentro tutto. Quindi io mi considero un custode di un bene che attualmente è nelle mie mani, che poi passerà ad altri. Siamo solo dei semplici custodi di un bene che spero non vada sprecato, perché la passione che io ho per le cartoline, ho anche delle fotografie, ma nella cartolina, l'emozione che mi dà la cartolina quando la trovo nei mercatini o riesco, è sempre superiore alla fotografia. Per me, io ne ho tantissime di foto, soprattutto del fronte galiziano, perché erano quelle che mi interessavano di più, però non mi danno quell'emozione che mi dà nel trovare una cartolina di Eger Lienz, cioè se ne ho trovato un'altra per esempio. Sono rare, ma si trovano, basta sapere aspettare. Quindi sono un semplice custode di un bene che poi passerà ad altri. Se non l'avete fatto, di andare a visitare la mostra su Albert Stolz, che si trova al Museo Civico, ed è bellissima perché sono suoi disegni originali. Tutti diversi da questi, sono dei disegni autoironici e ironici. L'avete vista? No, io non l'ho ancora vista. Vado a vedere. Ecco, la ringrazio di questo, no, è molto perché evidentemente, ripeto, il mondo era talmente vasto, gli artisti poi ne hanno fatte, e quindi sono sempre ben accetto quando mi danno dei suggerimenti, che io cerco di andare sempre, anche perché magari provo qualcosa. Sì, bene. Esatto. Ecco la differenza a volte con altre cartoline, che queste sono, ce ne sono di autoironiche, che forse sono le più belle, perché danno un senso anche di ironia della guerra e non di guerra puntaglia. Grazie.